Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Sopra un cielo limpido illuminato da un sole mattutino, un aereo sta sorvolando San Paolo del Brasile. Non può atterrare subito per motivi tecnici, così sorvola la città prendendo tempo. Dall'alto lo spettacolo è davvero grandioso. Si vede tutta l'Avenida San Paolo. Lo sfavillio di quei grattacieli azzardati come quelli di Manhattan è una testimonianza di progresso, un simbolo di benessere. I passeggeri dell'aereo ne sono stupiti. Chi può cerca di guadagnare una fetta di finestrino per poter guardare giù e a bordo si scatena un'euforia leggera. Poi l'aereo vira, si inclina per raggiungere l'aeroporto e sorvola un'altra zona di quella città. Lì non ci sono grattacieli, ma solo baracche, e sono tantissime. In Brasile le chiamano favelas. Sono basse, disordinate, sporche. Sulle strade dei bambini giocano a palla sollevando nuvole di polvere rossa sotto un sole che di lì a poco darà il tormento. È lo spettacolo dei poveri del Brasile, quelli che non ce la fanno, che non hanno lavoro o che forse l'avevano ma l'hanno perso. Fanno parte della città, della storia. Ci sono sempre stati e forse ci saranno sempre. Ma vederli dal vivo così numerosi è impressionante. A bordo, tra i passeggeri di quel volo, c'è una donna. È rimasta stupita dai grattacieli e ora è turbata dalle baracche. A sconvolgerla non è solo l'estrema indigenza e miseria in cui vivono tutte quelle persone, ma soprattutto il contrasto, la differenza evidente con la magnifica opulenza che offre quella città. Come possono convivere due anime così vicine e così in contraddizione l'una con l'altra? Come può una società cosiddetta civile nascondere una differenza che umilia la dignità dell'uomo? Per quanto tempo può andare avanti una simile situazione prima di arrivare a un punto di catastrofe e implodere? Ma lei non sa nulla di economia, è già anziana, ha 71 anni, cosa può mai fare? Siamo nel 1991 e questa donna si chiama Chiara Lubich. Chiara Lubich. Chiara nasce nel gennaio del 1920 a Trento. È la seconda di quattro figli. Il nome scelto dai suoi genitori non è però Chiara, ma Silvia, Silvia Lubich. Suo padre Luigi commercia in vino, ma la crisi del 29 mette in ginocchio l'attività e lo costringe a chiudere. La famiglia cade in uno stato di miseria che però non impedisce ai Lubich di far studiare i figli. La piccola Silvia cerca di aiutare come può in casa e impartisce lezioni di ripetizione, rivelando da subito la sua personalità e il suo spirito di iniziativa, uniti a una sensibilità particolare verso le cose di Dio, come ama definirle. Lo studio ha sempre esercitato su di lei un grande fascino e il rendimento scolastico lo conferma. Così, dopo il diploma all'istituto magistrale, si iscrive all'università, dove però non viene accettata. Anzi, per ironia della sorte, risulterà la prima dei non ammessi. Lei ama studiare, è sempre stata una fuoriclasse a scuola, i suoi genitori hanno fatto fatica a mantenerla agli studi. Silvia, quando legge i risultati in università, ne rimane sconvolta. Quel risultato è una sentenza che le taglia le gambe. Non ce la fa a tornare subito a casa. Così fa un lungo giro per la città e si ferma su una panchina a pensare. Ha bisogno di stare da sola, si vergogna. Al suo rientro trova però solo una madre preoccupata che, serena, l'incoraggia ad affrontare nuove sfide e in quel rapporto ritrova fiducia. Racconterà spesso poi che quell'episodio le ha insegnato che sono i rapporti umani e le relazioni a cambiare le persone. Decide quindi che avrebbe studiato lo stesso, da autodidatta. Avrebbe studiato la storia, la filosofia, la letteratura, ma soprattutto avrebbe approfondito il rapporto con Dio. Questo è il suo più grande desiderio. Nel 1943 fa voto di castità, diventando terziaria francescana. Da quel momento per tutto il mondo non sarà più Silvia, ma Chiara. La giovane ragazza di Trento è carismatica, affascinante. Parla di Dio come di un compagno, un fratello, un amico. E lo fa con una tale naturalezza che pian piano, accanto a lei, si forma un piccolo gruppo di ragazze, tutte tra i 19 e i 23 anni, che insieme cercano di studiare e vivere il Vangelo. Si chiamano Renata, Eli, Dori, Josie. Hanno la giovinezza ancora tra le mani e una speranza trascinante. Sembrano ragazze di oggi. Chiara Lubich ha riunito intorno a sé un gruppo di giovani ragazze di Trento con le quali studia e cerca di vivere gli insegnamenti del Vangelo. Ma la Seconda Guerra Mondiale, con tutta la sua potenza devastatrice, arriva inesorabile. Uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate! Un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Il 13 maggio 1944 la città di Trento viene colpita da un violento bombardamento. È già il secondo così forte, anche se non tutto è distrutto. Quello che rimane in piedi è pericolante e soggetto ad altre incursioni. La città si prepara a sfollare. Anche la famiglia Lubitsch si trasferisce sulle montagne in Valsugana perché casa loro è inagibile. Ma Chiara non sa che fare, non vuole abbandonare sua madre e i suoi fratelli, ma neanche la sua città con il suo carico di sofferenze. Deve stare accanto a chi non può partire, accanto alla sua piccola comunità e lì aiutare come può. Sente che deve cercare di unire ciò che è stato rotto, di tenerlo insieme. Abbandonarlo sarebbe come romperlo un'altra volta, non può proprio andarsene. Del resto lei è una donna, e caratteristica femminile anche all'interno dei nuclei familiari è tenere insieme, costruire, unire delle relazioni tra le persone. Chiara si sente impotente come molti e a volte anche inutile. Non ha risposte, ma ha una fede forte. Il Vangelo sarà la sua rivoluzione sociale. Ce lo racconta bene il ministro alla cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi. Proprio qui a Trento, nel 43, Chiara ha sognato l'unità e la pace. E la sognate a partire dal Vangelo. Qui siamo nel cuore di un grande sogno cristiano del Novecento. A Trento Chiara e le sue amiche trovano un piccolo appartamento abbandonato in via dei Cappuccini. È piccolo ma sufficiente a dar loro riparo. Inoltre non è pericolante, le bombe non sono riuscite a raggiungerlo. Lì dentro Chiara e le sue amiche ci stanno bene. Di giorno cercano di procurarsi un po' di acqua e cibo, aiutano tutti quelli che possono e spesso devono ripararsi in cantina per paura di altre bombe. Tra di loro si sviluppa una serenità e un'unità del tutto speciali. Così quel luogo viene rinominato il Focolar, il Focolare. Infatti, nell'immaginario di tutti, è il luogo più caldo e accogliente della casa. Quell'appartamento diventa così, in mezzo allo scenario devastante della guerra, un'isola felice anche per altri. È un posto aperto a tutti, dove chiunque entri possa trovare un po' di tepore per ritrovare speranza e fiducia. Il primo nucleo del futuro movimento dei Focolari, che oggi è presente nei 5 continenti, è stato gettato. Quando Dio pensa di usare di una creatura, di una persona, per i suoi fini, e sempre la prepara nella vita. Il nostro ideale è il sogno di un Dio, dicono i nostri ragazzi, cioè l'unità fra cristiani che si allarga poi alla fraternità universale. L'unità in tanti ambiti cattolici è uno dei più grandi valori, ma in questo nuovo movimento cattolico dei Focolari la novità sta nel fatto che Chiara non si accontenta dell'unità all'interno del suo gruppo o al massimo tra cattolici, ebrei, ortodossi, anglicani e protestanti, che già sarebbe una novità sorprendente. Lei crede fortemente che ogni essere umano abbia dentro una scintilla di Dio, sia esso tedesco, polacco, musulmano, buddista, africano o asiatico. Quindi cerca l'unità con tutte le persone che incontra, anche con persone appartenenti ad altre religioni, anche con gli atei. Favorire e costruire il dialogo diventa il suo obiettivo imprescindibile. Sogna la pace, dunque, intesa non solo come la fine di un conflitto mondiale, ma soprattutto come conseguenza di un'unità trasversale che coinvolga persone di tutte le culture, razze, popoli e religioni. Andate a cercare nei vostri libri sacri e troverete, e quasi dovunque, la cosiddetta regola d'oro. Il cristianesimo la conosce così: fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. E così Israele, non fare a nessuno ciò che non piace a te. L'Islam, nessuno di voi è vero credente se non desidera per il fratello ciò che desidera per se stesso. E l'induismo, non fare agli altri ciò che sarebbe causa di dolore se fosse fatto a te. Tutte frasi che significano rispetta, ama il tuo prossimo. Aprire le porte a un dialogo con il diverso sarà un punto cardine per Chiara, che non ha certo l'ambizione di voler creare un movimento cattolico in quel momento, durante la guerra, né tantomeno vuole suggerire teorie economiche o sociali. Vuole solo provare a vivere il Vangelo. È un sogno azzardato, tanto più se si pensa che in quella prima comunità ci sono solo donne, sono giovani, e il periodo storico vede una società molto maschilista. Anche la Chiesa è molto maschilista e conservatrice. Mal digerisce colpi di testa e ampliamenti di vedute che rischiano di alterare gli equilibri esistenti. Al suo interno, poi, il clero, e solo il clero, organizza gli ordini secondo rigide gerarchie. La gente normale, i laici, possono solo fare da spettatore. Cos'è questa novità di un movimento fatto da cattolici laici? Cosa si è messa in testa questa ragazzina venuta da Trento? La guerra ormai è finita. Il nazismo con i suoi orrori è caduto ed è finito anche il ventennio fascista. Siamo negli anni 50. La famiglia Lubitsch è rientrata dallo sfollamento e la città di Trento, come d'altronde tutta l'Italia, sta cercando di rimettersi in piedi. La politica ora deve inventarsi la democrazia. Se da un lato è esaltante per l'Italia disegnarsi finalmente un futuro che gli appartiene, dall'altro c'è tanto da ricostruire. La povertà e l'indigenza sono una condizione normale per la maggior parte delle famiglie. Nell'Italia del dopoguerra l'istruzione non è scontata e le priorità sono il lavoro e la casa. L'Italia è una nazione fondata sul lavoro, si legge nella Costituzione, e gli italiani non si tirano certo indietro. Le imprese sono per lo più piccole o al massimo medie, spesso a conduzione familiare. Non esistono ancora le multinazionali e i manager. Possedere una macchina è privilegio di pochi e possedere una Lambretta è un sogno per molti. È il tempo del rock and roll importato dall'America e presto gli elettrodomestici cambieranno le abitudini di tutti. Sono anni difficili per il paese, ma che portano dentro un'euforia, un'allegria e una voglia di costruire che sarà preziosa per il paese. Anche l'America vede l'Italia e Roma specialmente come un posto che fa sognare e divertire. La pensa così anche la principessa Anna, interpretata da Audrey Hepburn in Vacanze Romane. Quali delle città visitate è piaciuta di più a vostra altezza? Ognuna nel suo genere? Ognuna nel suo genere è indimenticabile. Tuttavia potrei dire Roma. Sì, Roma, senz'altro. Il ricordo di questa mia visita non mi abbandonerà, sin tanto che vivrò. Chiara Lubitsch e le sue amiche, il primo nucleo del movimento dei focolari, decidono nel 1948 di trasferirsi a Roma, da sempre sede della cristianità. Non è però semplice trovare un alloggio, anche perché i mezzi di cui dispongono sono piuttosto limitati. Le tentano tutte, attraverso conoscenti arrivano a Montecitorio, dove c'è un deputato che forse potrebbe aiutarle. Quando entrano, il luogo le mette in soggezione. Loro sono ragazze semplici, vengono dalla provincia, hanno dalla loro un'amicizia fondata sulla fede, ma possono essere facilmente fraintese e sembrare visionarie. A riceverle c'è un uomo dell'età dei loro genitori che però è giovane alla politica. Sente che il momento storico è delicato ed è convinto che sia la politica che la Chiesa abbiano bisogno di nuovi protagonisti per scrivere la storia e che il contributo di tutti sia fondamentale. Anche quello di semplici ragazzine di montagna. Le ascolta quindi con attenzione e ne rimane prima incuriosito, poi affascinato. Questa è la sua idea di società, persone diverse che dialogano tra di loro, unite dall'essere semplicemente uomini. E questo è il contributo che vuole dare facendo politica. I valori che indicano queste ragazze sono universali, non solo cristiani, e il radicamento nel sociale attraverso leggi, proposte e decisioni è per lui una necessità. Lui è Igino Giordani. Igino Giordani. Igino Giordani nasce a Tivoli nel 1894. È il primo di sei fratelli. Suo padre fa il muratore, mentre sua madre bada alla casa e ai figli. Non è prestante fisicamente, anzi è piuttosto mingherlino, ma è dotato di un'intelligenza raffinata e vive tutto con grande passione. Ai giochi fisici preferisce lo studio, soprattutto della letteratura e della filosofia. Spesso rimane sveglio fino a tardi per finire un libro o approfondire un argomento studiato a scuola. Forse perché primo di sei fratelli cresce con un grande senso di responsabilità. Si laurea in lettere e filosofia e nel 1920 sposa Tivoli Mia Salvati, che gli darà quattro figli. Igino Giordani diventa presto scrittore e giornalista. Tra i politici apprezza particolarmente De Gasperi, soprattutto per la sua larghezza di vedute e dirittura morale. Ma è il 1928, in pieno ventennio fascista. De Gasperi, dopo aver sostenuto la causa fascista, si schiera decisamente contro il regime. Viene arrestato e condannato a 4 anni di carcere e al pagamento di una multa salatissima che lo avrebbe messo in ginocchio. Quando Igino lo scopre, non riesce a tacere. Deve tentare di fare qualcosa. Ce lo racconterà in uno dei suoi scritti. Ricordo d'essermi recato io stesso dal padre gesuita Tacchi Venturi, il quale godeva di notevole credito presso il duce, e pregarlo di intervenire perché De Gasperi fosse lasciato in pace. Mi fu riferito che, venuta la cosa a conoscenza di Mussolini, costui si era sorpreso che ancora De Gasperi fosse trattato in quel modo e aveva dato l'ordine che lo lasciassero in pace. Quel fatto cambia radicalmente le prospettive del suo lavoro e la sua idea di politica. Se come giornalista e scrittore può dire la sua, con la politica può anche fare qualcosa di più. Gli accadimenti vanno fatti succedere, o almeno si può provare. Verrà eletto deputato alla Camera nel 1946 e rimarrà in carica fino al 1953. Pacifista convinto, proporrà la legge sull'obiezione di coscienza, che non renderà più obbligatorio il servizio di leva. La politica è fatta per il popolo, non il contrario. Prima l'uomo e poi la morale. La politica non deve diventare padrona, non farsi abuso. Qui è la sua funzione. Essere servizio sociale. Carità in atto. La Seconda Guerra Mondiale ha scosso le coscienze. E se nel dopoguerra l'Italia imprenditoriale ce la sta mettendo tutta per ricominciare, l'Italia politica sta cercando nuovi talenti. Del resto anche la democrazia è una novità e gli italiani vogliono finalmente sentirsi protagonisti nelle decisioni. Bisogna cambiare le regole del governare, proporre nuovi scenari, proporli in fretta. E Gino non sa se è adatto alla politica. Non è un diplomatico, non è uno stratega, anzi è focoso, ma ama la realtà e la vita. Non crede che la politica sia fatta da persone imbalsamate, non crede che i poteri siano inaccessibili. Piuttosto, è fermamente convinto che le azioni vadano tentate e le soluzioni proposte. Così lo ricorda Gianfranco Fini. La sua innata umiltà lo portava a essere costantemente al servizio degli altri. Non era un intellettuale chiuso nella costruzione di teorie o concentrato nella ricerca. Quando nel settembre del 1948 nel suo ufficio a Montecitorio si presentano quelle giovani di Trento, Igino si appassiona subito a questa proposta. Anche lui è credente ed è molto colpito da quella piccola comunità e soprattutto ne intravede un potenziale nell'ambito sociale. L'unità e la pace sono concetti laici, valori condivisi da tutti gli uomini, di tutte le religioni e di tutte le età, ma possono anche essere molto utopistici, aleatori, vaghi. Diventano reali se davvero riescono a trovare una declinazione nel sociale e non rimanere relegati nell'ambito religioso. E questa sfida lo stuzzica e lo appassiona. Quando diceva che la politica è fatta per la gente, di sicuro non stava scherzando. Tra i due nasce così una di quelle intese profonde che raramente accadono nella vita. Giordani sarà il primo focolarino sposato e aprirà così la porta del movimento alle famiglie. Fonderà il Centro 1, organismo del movimento che si occupa dell'ecumenismo. Anticiperà negli anni precedenti il Concilio Vaticano II alcuni temi legati alla famiglia, all'integrazione. Ma cosa c'entri questa storia con ciò che successe su quel volo per San Paolo del Brasile? Ve lo racconteremo tra poco, a Destini Incrociati. Destini Incrociati. A Destini Incrociati viaggiamo tra San Paolo, Trento e Roma. Una giovane donna, Chiara Lubic, durante la guerra mondiale, porta avanti un grande ideale di pace. Unire ciò che è stato rotto, chi la pensa diversamente, chi appartiene ad altre religioni, diventa la sua missione. Dio è in ogni uomo e lei ama Dio. È un grande progetto spirituale che rischia però di rimanere relegato all'ambito religioso in cui vive o rimanere teoria. Ma l'incontro col parlamentare scrittore Igino Giordani detta la svolta. Lui intravede il potenziale civile e sociale, il carattere universalistico, ne riconosce la dimensione laica. Ce ne parla l'economista Luigino Bruni. Un movimento che coinvolge da subito persone di tutti i continenti, tutte le religioni, tutte le chiese cristiane, che ancora oggi al suo interno vescovi, buddisti, musulmani, ortodossi, cristiani, persone di altre convinzioni religiose, quindi non credenti, che fanno parte del movimento dei focolari, che è nato da un carisma religioso. Cioè, questa dimensione universalistica, laica, di una visione della religione molto civile. Igino, attraverso il Centro 1, organizzerà incontri con i principali responsabili delle chiese e delle altre religioni nel mondo, rabbini, imam, bramini induisti, monaci buddisti. Da molti Chiara e Igino riceveranno un rifiuto, ma da altri verranno accolti con entusiasmo. La Lubic sarà la prima donna invitata a parlare a New York in una moschea, ad Harlem, in Thailandia, tra i monaci buddisti, o in Argentina, nella comunità ebraica di Buenos Aires. Il Vaticano però è conservatore e non vedrà molto di buon occhio queste iniziative. Cercherà di scoraggiarli, li ostacolerà, fino all'arrivo del Papa polacco, che invece ne capirà l'importanza storica facendo sua la causa. Insieme Chiara e Igino lavorano perché quest'ideale di pace abbia un luogo. Utopia viene dal greco e significa letteralmente mancanza di luogo. Da qui l'idea di costruire delle cittadelle. La prima nasce in Italia, in Toscana, a Loppiano. È un vero e proprio paese di circa 1000 abitanti, con aziende, scuole, campi, mense, dove ogni anno vengono organizzati convegni e seminari sulla pace, l'integrazione, l'accoglienza e il vivere civile. Oggi si contano 35 cittadelle in tutto il mondo. Torniamo ora a quello che accade su quel volo nel maggio del 91. Chiara è travolta emotivamente dalla scena di quelle baracche che convivono vicine allo sfarzo e al lusso. È a conoscenza dell'esistenza di queste favelas, ma l'esperienza è talmente toccante che Chiara in aereo si sente male. E continua a stare male anche una volta atterrata. Così è costretta a stare a letto qualche giorno e annullare tutti gli appuntamenti. Ce lo spiega Luigino Bruni. Chiara non fu tanto colpita, o solo colpita dalla povertà, ma dal contrasto. Questo è tipico anche del suo carisma, della sua esperienza. Cioè, sono i rapporti. La povertà è un rapporto sbagliato, non è uno status individuale. Cioè, c'è qualcosa che non funziona nei rapporti sociali. E quindi l'idea. Perché la povertà è basta, nel mondo c'è sempre stata. Non è la povertà in sé a scandalizzarla, ma il contrasto. Non tanto le favelas, ma le favelas accanto ai grattacieli. Il contrasto di un mondo che sa sfidare il cielo con queste costruzioni straordinarie, ma non sa sfamare il bambino che muore di fame. Se la povertà è una questione di rapporti sbagliati, nessuno è immune dal rischio di caderci dentro. Il sistema economico stesso, poi, rischia di implodere, mettendo a rischio la vita e il benessere di tutti. La società è una squadra e il gioco di squadra è fondamentale. Concetti universali e sicuramente non nuovi, ma che oggi non sono più scontati. Ce li aveva spiegati anche Edoardo De Filippo in Napoli Milionaria. Don Amar, la medicina che il dottore ha prescritto per vostra figlia ce l'ho io. Eccola qua. Quanto volete? Che mi volete restituire? Tutto quello che io avevo è nelle vostre mani. Mi avete spogliato. Quel poco di proprietà, oggetti di mia moglie, ricordi di famiglia, biancheria. Con biglietti da 1.000 alla mano ho dovuto chiedervi l'elemosina di un po' di riso per i miei figli. Adesso pure di vostra figlia si tratta. Ma che sta in medicina? D'accordo. E giustamente voi mi dite, senza la medicina indicata si muore. Ma perché secondo voi, donna Ma, senza mangiare si campa? Se io non mi fossi tolta la camicia, i figli miei non sarebbero morti di fame. Come vedete, chi prima e chi dopo deve, a un certo punto, bussare alla porta dell'altro. La povertà può colpire chiunque, e se a causa di rapporti sbagliati colpisce troppe persone e dilaga, frena i consumi e quindi il benessere, e la ruota si ferma. Lo sa bene l'Italia, che insieme all'Europa sta vivendo gli effetti di una crisi finanziaria mondiale. L'idea di Chiara non è quella di raccogliere denaro per aiutare le persone in difficoltà. Non vuole promuovere un'azione di assistenzialismo o di fundraising. Già nel 91 intuisce che perché la povertà non dilaghi e il sistema economico non imploda, bisogna cambiare l'impresa. Non bisogna trovare persone più generose che donino i soldi a chi non ce li ha. La povertà urbana è direttamente legata all'impresa e per sconfiggere la prima bisogna riformare la seconda. Per evitare che la prima dilaghi rischiando potenzialmente di colpire chiunque, bisogna rifare i rapporti d'impresa. Povertà e impresa sono quindi intimamente legati, perché se le favelas aumentano, il problema non è solo di chi ci abita, ma anche dei grattacieli. La povertà, ce lo dicono oggi i premi Nobel come Amartya Sen, è prima di tutto un problema di rapporti sbagliati, anche di rapporti produttivi. Dopo quell'esperienza sui cieli brasiliani, Chiara convoca Luigino Bruni, economista e docente universitario, e gli affida il compito di creare un gruppo di lavoro per studiare, ma soprattutto verificare e far partire il progetto. Nasce così una teoria economica che adesso viene studiata nelle università, chiamata economia di comunione. È una teoria semplice, ma che oggi, dove le regole di un vivere civile sono venute meno, è più che mai attuale. Chiara Lubich, oltre ad avere sempre indicato Igino Giordani come il cofondatore del Movimento dei Focolari, durante il discorso nel quale lancia la sua nuova economia il 29 maggio 1991 a San Paolo, legge proprio una sua lettera indirizzata alla cooperativa agricola della prima cittadella, riconoscendogli di avere contribuito a preparare il terreno a questo progetto. Voi testimoniate e gridate il Vangelo semplicemente con il lavoro e la comunione dei beni. Siete le primizie di una società da molti concepita solo a parole eppure sognata da tutti. Quindi è l'impresa a dover essere riformata per sconfiggere la povertà con il lavoro. Nell'Italia del dopoguerra, quando la povertà dilagava, quando tutto era da costruire e gli italiani erano pronti a giocarsi le loro carte, anche le persone più semplici avevano questo concetto molto chiaro, come ci spiega bene Vittorio De Sica col suo film Ladri di biciclette. 12.000 di fisso, più 2.000 di straordinari, più l'assegni familiari, fanno 800 lire al giorno. 800 per 30, fa un po' il conto. Che vuoi di più? Meglio di così. E uno ci deve rinunciare. Io non ci voglio rinunciare. Capisci che bisogna ritrovarla. Perché se no non se magna. Che se può fare? Bisogna una posta potesse tutti i giorni. Le imprese col reddito devono creare lavoro. Gli utili non possono essere destinati solo all'imprenditore per sé, per compensi da capogiro dei manager, ma devono creare e garantire lavoro. Non c'entra solo l'etica, c'entra anche la convenienza. Il profitto dell'impresa ha una natura sociale, non è frutto solo del talento dell'imprenditore o del capitalista. Condividerlo non è filantropia, ma giustizia e convenienza. Mortificando la natura sociale dei profitti, si costruiscono mondi e sistemi economici che prima o poi falliscono. I poveri non sono più poveri se lavorano. Questa è una cosa molto importante, perché finché tu non lavori e ricevi un aiuto, sei sempre un povero più l'aiuto. Non è che esci dalla povertà. La povertà si esce lavorando. Questo è anche un messaggio dei francescani, la famosa frase dei francescani: con l'elemosina si sopravvive, ma si vive lavorando. Un concetto talmente universale da comparire in altre culture in diverse epoche, quando ancora il termine impresa non era neanche stato coniato. Un vecchio proverbio cinese, infatti, dice: dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno. Insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita. Ma Chiara non è un economista. Come ce la farà? Ve lo diremo tra poco. A Destini Incrociati. Destini Incrociati. Chiara Lubich e Gino Giordani insieme, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, fondano il Movimento dei Focolarini. È un movimento cattolico che, a partire dal comandamento del Vangelo di amarsi gli uni con gli altri, accoglie e dialoga con tutti. Getterà poi le basi per una teoria economica che oggi, a distanza di 20 anni dalla sua nascita, è più che mai attuale. Si chiama economia di comunione, viene insegnata nelle università e grazie alla sua teorizzazione a Chiara Lubich verranno riconosciute 16 lauree honoris causa in diverse discipline: economia e commercio, scienze sociali, filosofia, lettere, pedagogia, psicologia, da parte di università cattoliche non in diversi paesi del mondo. Sentiamo il professor Zamagni, che è stato presidente dell'Agenzia per il Terzo Settore ed è docente di economia all'Università di Bologna. E se uno mi dovesse dire qual è l'esempio oggi più chiaro e più evidente di economia civile, la mia risposta è l'economia di comunione. Nel 91, quando Chiara Lubich atterra a San Paolo, ancora è lontana la crisi che oggi mette le aziende e i lavoratori italiani in ginocchio. Eppure già 20 anni fa, Chiara denuncia i fallimenti del mercato e sostiene che bisogna proporre rapporti di lavoro nuovi e un'economia che faccia nascere posti di lavoro. Questo vuol dire riscrivere i rapporti all'interno delle imprese, riallocare le risorse e riscrivere gli statuti delle società. Insomma, far nascere una nuova cultura economica. Come fare, ce lo spiega lei stessa in occasione della laurea honoris causa all'Università di Piacenza. Ho pensato che si potevano far nascere fra i nostri delle aziende, in modo da impegnare le capacità e le risorse di tutti per produrre insieme ricchezza a favore di chi si trovava nella necessità. La loro gestione doveva essere affidata a persone competenti, in grado di farle funzionare efficacemente e ricavarne degli utili. Questi dovevano essere liberamente messi in comune, e cioè in parte essere usate per gli scopi stessi della prima comunità cristiana, aiutare i poveri e dar loro da vivere finché abbiano trovato un posto di lavoro. Un'altra parte per sviluppare strutture di formazione per uomini nuovi, cioè persone formate, animate dall'amore, atte a quella che chiamiamo la cultura del dare. Un'ultima parte, certo, per incrementare l'azienda. Degli utili una parte deve andare all'impresa per tendere alla crescita e creare posti di lavoro. Un'altra parte deve essere utilizzata per sconfiggere direttamente la povertà, per le emergenze immediate, per opere assistenzialistiche. Coloro che si trovano in difficoltà economica, i destinatari di una parte degli utili, non sono visti semplicemente come assistiti o beneficiari dell'impresa. Essi sono invece membri essenziali del progetto all'interno del quale essi fanno dono agli altri delle loro necessità. Vivono anch'essi la cultura del dare. L'enfasi non è posta sulla filantropia da parte di alcuni, ma piuttosto sulla condivisione, dove ciascuno dà e riceve con pari dignità nell'ambito di una relazione di sostanziale reciprocità. Infine, un'ultima parte degli utili va alla formazione culturale, ai giovani soprattutto. Chiara sostiene che per cambiare l'economia e produrre un benessere che sia garanzia di futuro per la società, bisogna cambiare la mentalità delle persone, a partire dai giovani. Investire sulla formazione vuol dire prima di tutto aprire scuole, prevedere borse di studio, promuovere e sostenere progetti da sviluppare. Nella cittadella di Loppiano, infatti, nel 2006, è stata inaugurata l'Università Sofia, Bisogna poter pensare, oggi più che mai, che i sogni siano ancora realizzabili. L'economia è una rete di relazioni e tutti ne sono coinvolti, soci, lavoratori, banche, ma anche la gente comune, quelle che abitano il posto dove l'azienda nasce. Senza questa rete di rapporti ci sarà inevitabilmente la solitudine dell'imprenditore, l'aumento della povertà, la perdita di posti di lavoro. Ce lo spiega lo scrittore Harry De Luca. E questo è un effetto dell'idolatria dell'economia. Il momento in cui uno sente di perdere del potere di acquisto, si sente desolato, sente crollare tutto il mondo intorno, mentre invece il mondo intorno esiste, vive ed è pronto anche a sorreggere. Basta uscire dalla gabbia del proprio conto corrente, insomma, e guardarsi intorno e chiedere aiuto, e all'aiuto viene dato. Esiste in questo paese una rete di umanità che fornisce aiuto e sostegno alle persone. Quelli che si disperano in questo modo per la perdita della loro posizione sociale si potrebbero salvare. Utopia, abbiamo visto che significa mancanza di luogo. Quindi perché economia di comunione non rimanga una magnifica utopia, Chiara propone di far nascere dei poli industriali dove questa economia possa vivere ed essere verificata. Oggi nel mondo se ne contano 7, tra Brasile, Argentina, Belgio, Italia, Portogallo, Croazia. Sono coinvolte più di 1 migliaio di imprese, tutte in attivo, e che in tempo di crisi hanno reagito bene, registrando un aumento degli utili. Economia di comunione è stata indicata da Benedetto XVI nella Caritas in Veritate come modello economico da sviluppare e diffondere su vasta scala, e insegnata nelle università, ha dato origine a oltre 400 tesi di laurea. Ispirandosi anche a questa teoria economica, il banchiere Muhammad Yunus inventa il sistema di microcredito per il quale nel 2006 gli verrà assegnato il Nobel per la pace. Ce lo spiega Teresa Ganzon, proprietaria della banca Cabayan nelle Filippine, che aderisce al progetto. Ci siamo detti, non occorre costruire qualcosa di grande se l'impresa deve soltanto mantenere la nostra famiglia. Ma Chiara ci ha spinto a fare qualcosa di più grande. Fatelo per i poveri, ha detto Chiara. Noi ci siamo detti, i poveri sono tanti. Vuol dire che non possiamo rimanere una banca con un solo mercato. Allora nel 2000, dopo averlo approfondito un po', abbiamo avviato un programma di microcredito con dei piccoli prestiti concessi senza garanzie. Abbiamo 2 programmi. Uno è il prestito di solidarietà ai gruppi di persone ed è simile a quello del professor Yunus della Grameen Bank. E l'altro è il prestito al singolo. Oggi abbiamo circa 8.000 clienti ed i numeri continuano a crescere. Pian piano stiamo diventando non più un distributore di credito, ma un veicolo che favorisce e facilita lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. Chiara è semplice, addirittura disarmante. È sempre stata mossa da un grande entusiasmo per la vita e dall'amore per gli uomini e per Dio. Non si è fermata nel periodo della guerra, nonostante fosse una donna, anzi una ragazza di 20 anni. Non si è fermata perché non aveva gli strumenti istituzionali per cambiare qualcosa. Non si è fermata neanche davanti al dissenso della Chiesa. Non si è fermata davanti ai pregiudizi di quegli anni che volevano la donna arrendevole e defilata. C'è un modo bello, laico, di presentare un movimento intanto nato da donne in un periodo, tutto tema femminile sarebbe un tema straordinario. Tu ti immagini un movimento che nasce da donne negli anni 40 a Trento, la Chiesa Cattolica, neanche suore, che hanno fondato loro un movimento composto di uomini, preti, vescovi, subito con responsabili donne in quel tempo lì, laiche, ragazze, che ancora oggi è un movimento dove la presidente è donna all'interno della Chiesa Cattolica. Cioè tutta questa dimensione ti parla tanto della donna che non è valorizzata, è stata una cosa straordinaria e lo è ancora, del femminile che cambia la storia, no? Ma in modo istituzionale. Chiara non si è fermata neanche 50 anni dopo in terra brasiliana. Anche Igino Giordani era come lei. Non si è spaventato quando la democrazia e la Repubblica erano una pagina bianca. Si sono dati disponibili a cambiare il presente e la storia. Insieme hanno contribuito a costruire una teoria economica e un movimento religioso che oggi è presente nei 5 continenti e che ha come caratteristica peculiare un'apertura non solo ai cristiani di tutte le chiese, ma ai fedeli di tutte le altre religioni e perfino ai non credenti, rincorrendo per tutta la vita un sogno di unità e pace per il mondo. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.